Capitolo 7. Quella monella di Nanna. Fritz, mi è venuta una nuova idea, annunciò un giorno mamma Baer, incontrando suo marito appena finite le lezioni. Ebbene, cara, di che si tratta? Chiese egli, già divertito nell'attesa di sentire il nuovo progetto, perché alcune delle idee di mamma Jo erano così bizzarre che bisognava ridere per forza, sebbene di solito risultassero poi molto sensate ed egli volentieri le mettesse in pratica. Daisy ha bisogno di una compagna e i ragazzi avrebbero tutto da guadagnare se ci fosse fra loro un'altra bambina. Tu sai che noi crediamo utile allevare insieme maschi e femmine ed è più che tempo di agire in conformità di questo nostro principio. Essi un po' viziano e un po' tiranneggiano Daisy e finiscono per guastarla. E poi debbono imparare ad essere gentili, ad avere maniere più garbate e niente di meglio per questo che vivere insieme a delle ragazzine. Hai ragione, come sempre, ma chi prenderemo? Chiese papà Baer, leggendo negli occhi della moglie che aveva già pronto il nome da proporre. La piccola Annie Harding. Cosa? La monella, come la chiamano i ragazzi? Esclamò papà Baer con aria molto divertita. Appunto, è rimasta sola in casa dopo la morte della mamma e sta diventando una piccola selvaggia. Sarebbe un vero peccato che una bimba così intelligente fosse guastata dalle persone di servizio. La tengo d'occhio da un pezzo e l'altro giorno, incontrando suo padre in città, gli ho chiesto perché non la mandava a scuola. Mi ha detto che ce la manderebbe volentieri se potesse trovare una scuola per ragazze buona come la nostra per maschi. Capisco che sarebbe contentissimo di metterla qui da noi. Che ne diresti di andare oggi a parlargliene? Ma, Jo mia, non hai già abbastanza pensieri senza che questa zingarella venga a tormentarti? Chiese papà Baer dando dei colpetti affettuosi sulla mano appoggiata al suo braccio. Oh no, rispose vivacemente mamma Baer. Mi piace e non sono mai stata felice come da quando vivo in mezzo a questi figlioli turbolenti. Vedi, Fritz, io ho una gran simpatia per Nan, perché sono stata anch'io una tale birichina che son pratica di queste cose. È piena di vita e basta che impari a servirsi bene della sua vivacità per diventare una cara ragazzina come Daisy. La sua vivace intelligenza proverebbe piacere nello studio se fosse ben diretta, e quella che è ora una piccola sbarazzina potrebbe presto trasformarsi in una bimba attiva e felice. Io so come prenderla, perché ricordo come faceva la mia santa mamma con me, e se riuscirai la metà di come è riuscita lei, avrai compiuto un'opera meravigliosa. La interruppe signor Baer, fermamente persuaso che sua moglie fosse la migliore e la più deliziosa donna del mondo. Bada che se prendi in giro il mio progetto ti farò il caffè lungo per una settimana. E allora che ne sarà di te? Minacciò mamma Jo dandogli una tiratina d'orecchi come se fosse stato uno dei ragazzi. Ma ad Daisy non si drizzeranno i capelli in testa per l'orrore di fronte alla sfrenatezza di Nan? Chiese papà Baer mentre Teddy gli si arrampicava su per il panciotto e Rob su per la schiena, perché appena finita la scuola correvano tutti e due dal loro babbo. In principio, forse sì, ma le farà bene. Sta diventando un po' affettata e troppo donnina e ha bisogno di essere un pochino scossa. Si è sempre divertita molto quando Nana è venuta qui a giocare e si gioveranno vicenda senza accorgersene. Caro mio, metà della pedagogia consiste nel sapere quanto i ragazzi possono fare gli uni per gli altri e quando sia il momento di metterli insieme. Speriamo soltanto che non mi dia fuori un'altra pietra dello scandalo. Povero il mio Dan, non posso perdonarmi di averlo lasciato andar via, sospirò mamma Baer. A quel nome il piccolo Teddy, che non aveva dimenticato il suo amico, sgusciò dalle braccia del babbo e trotterellando verso l'uscio guardò fuori il prato soleggiato, come se desiderasse di veder spuntare qualcuno. E poi ritrotterellò indietro, dicendo, come soleva dopo ogni delusione, il mio Dannito nella plesto. Mi convinco sempre più che avremmo dovuto tenerlo ancora qui, non fosse che per amore di Teddy. Gli voleva tanto bene e forse l'affetto del bimbo avrebbe fatto per lui quello che a noi non è riuscito. Anch'io qualche volta l'ho pensato, ma scatenava troppo i ragazzi e dopo che per poco non ha bruciato la casa con quanti c'erano dentro, ho creduto più prudente allontanarlo almeno per qualche tempo. Il pranzo è pronto, lasciatemi suonare la campana. E Rob cominciò un tale assolo che non era più possibile intendersi. Allora posso avere Nan, vero? Chiese la signora. Anche una dozzina di Nan, se lo desideri, cara. rispose il signor Baer, nel cui paterno cuore c'era posto per tutti i piccoli discoli abbandonati del mondo. Quando la signora Joe tornò quel pomeriggio dalla sua gita in città, prima ancora che potesse scaricare i piccini senza i quali raramente si muoveva, una ragazzina sui 10 anni balzò fuori dalla parte posteriore della carrozza e corse in casa gridando: «Ehi, Daisy, dove sei?» Daisy venne subito, apparentemente contenta di vederla, ma anche un po' allarmata quando Nan disse, sgambettando come se non potesse star ferma: «Sono venuta per restare sempre qui. Papà me l'ha promesso, il mio bagaglio arriverà domani e la mia roba deve essere lavata e rammendata. E tua zia è venuta e mi ha portata via. Non è una gran bella cosa?» «Certo. Hai anche la tua bambola grande?» chiese Daisy, sperando di sì, perché durante l'ultima sua visita Nan le aveva buttato all'aria la casa delle bambole e, avendo voluto a tutti i costi lavare la faccia di gesso di Bianca Matilde, aveva rovinato irrimediabilmente il suo bel colorito. «Sì, deve essere da qualche parte», rispose Nan con una indifferenza tutt'altro che materna. «Mentre venivo ti ho fatto un anello strappando i peli della coda di Dobbin, lo vuoi?» E le offerse un anello fatto di crini di cavallo come pegno di amicizia, dato che l'ultima volta, lasciandosi, avevano giurato di non parlarsi mai più. Vinta dal bel regalo, Daisy divenne più cordiale e propose di andare a giocare nella stanza della bambinaia, ma Nan protestò dicendo: «No, voglio andare a vedere i ragazzi e il capannone». E corse via, agitando il cappello per uno dei nastri, e poiché questo si ruppe, lo abbandonò al suo destino sull'erba. «Olà, Nan!» gridarono tutti quando essa piombò in mezzo a loro, annunziando: «Sono venuta per stare qui con voi!» «Urrà!» strillò Tommy dal muretto su cui si era inerpicato, perché Nan era della sua stessa specie ed egli prevedeva una bella serie di birichinate per l'avvenire. «Io sono brava alla palla, lasciatemi giocare!» disse Nan, capace di far tutto e insensibile ai colpi. «Ora non giochiamo, e la nostra squadra vince senza di te. Posso però sempre battervi alla corsa», replicò lei, trincerandosi dietro la sua specialità. «Davvero?» chiese Nat. «Corre molto bene per una ragazza», ammise Jack, guardandola con aria di condiscendente approvazione. «Volete provare?» chiese Nan, desiderosa di dar prova della sua abilità. «Fa troppo caldo», obiettò Tommy, appoggiandosi languidamente al muro, come se fosse esausto. «Che è successo, Staffy?» chiese Nan, correndo con gli occhi dall'uno all'altro. «La palla l'ha colpito alla mano e lui piagnucola per niente», rispose Jack sprezzante. «Io non piango mai, per quanto male mi faccia, son cose da mocciosetti», disse Nan con orgoglio. «Storie, mi sentirei di farti piangere in 2 minuti», ribatté Staffy infuriato. «Provati!» «E tu, va a cogliere quel ciuffo di ortica», disse Staffy, additando un vigoroso esemplare di quella pianta pungente cresciuto accanto al muretto. Subito Nan afferrò l'ortica, la svelse e la brandì con gesto di sfida, nonostante il bruciore quasi insopportabile. «Brava!» gridarono i ragazzi, sempre pronti a riconoscere il coraggio anche nel sesso debole. Ma Staffy, più punto ancora di lei, era deciso a farla piangere, disse quindi, per stuzzicarla: «Tu sei abituata a ficcare le mani dappertutto, quindi non conta. Vai invece a sbattere forte la testa contro il muro, sì che strillerai». Ma Nan correva già di filata verso il muro del capannone, contro il quale dette una tale testata che il colpo risuonò come quello di un ariete, facendola poi cadere lunga distesa. Stordita, ma non doma, si rialzò barcollante e disse, fiera, ma col viso stravolto dal dolore: «Fa male, ma non piango». «Fallo ancora», disse Staffy rabbiosamente, e Nan avrebbe ripetuto la prova se Nat non l'avesse trattenuta, mentre Tommy, dimenticando il caldo, correva addosso a Staffy con un galletto infuriato, urlando: «Finiscila o ti faccio volare sopra il tetto!» E lo scuoteva, malmenandolo talmente che il povero Staffy per un attimo non capì più se stava ritto sui piedi o sulla testa. «È stata lei a dirlo!» fu tutto quanto riuscì a borbottare quando Tommy lo lasciò libero. «Non importa. È una vigliaccheria far male a una bambina», disse Demi in tono di rimprovero. «Che vuol dire? Non sono mica una bambina. Sono più vecchia di te e di Daisy. Finiscila dunque», gridò la ingrata Nan. «Non predicare, diacono, tu che fai il prepotente con Daisy tutti i giorni della tua vita», disse il comodoro, che arrivava proprio allora. «Ma io non le faccio male, vero Daisy?» disse Demi, volgendosi verso la sorellina, che stava osservando impietosita la mano formicolante di Nan, e raccomandava all'amica di bagnarsi con acqua fredda il bernoccolo rosso che le si andava rapidamente formando sulla testa. Tu sei il ragazzo più buono del mondo, rispose pronta, aggiungendo poi, per amore della verità, qualche volta mi fai male, ma senza volerlo. Ritirate i magli, le palle, eccetera, e badate a quel che fate, o miei prodi. A bordo di questa nave non è permesso picchiarsi, disse Emil, che aveva una certa supremazia su di loro. Come stai, argento vivo? Chiese il signor Byron a Nan, che entrava con gli altri nella stanza da pranzo. No, la destra, bimba mia. Attenta alle buone maniere, aggiunse poi vedendosi offrire la sinistra. L'altra mi fa male. Povera manina. Che cos'è che ti ha prodotto tutte queste vesciche? Chiese allora, costringendola a tirarla fuori di dietro la schiena, dove la teneva nascosta, con un'aria che gli fece subito subodorare qualche birichinata. Prima che Nan avesse potuto trovare una scusa, Daisy spifferò ogni cosa, mentre Staffy cercava di celare la faccia in una ciotola di pane e latte. Finito il racconto, il signor Baer lanciò un'occhiata a sua moglie all'altro capo della lunga tavola e disse con un lampo negli occhi: Questo riguarda in modo speciale il tuo reparto, quindi non voglio intromettermi, cara. Mamma Jo capì benissimo che cosa intendeva, ma la pecorella nera le era tanto più cara quanto più ardimentosa. Si limitò quindi a dire con la massima calma: Sapete perché ho invitato Nanna a venire qua? Perché mi tormentasse, sbofonchiò Staffi con la bocca piena. Per aiutarmi a fare di voi dei piccoli gentiluomini, e mi pare che qualcuno abbia dimostrato di averne bisogno. Qui. Staffy si tuffò di nuovo nella sua ciotola per emergerne solo quando Demi provocò le risate generali, dicendo, con quella sua aria di cascar dalle nuvole: E come può riuscirci un maschiaccio simile? Appunto per questo ne ha bisogno non meno di voi, e io sono sicura che ne farete un modello di buona educazione. Diventerà anche lei un piccolo gentiluomo? Chiese Rob. Questo le piacerebbe, vero Nan? Chiese Tommy. No. Non mi piacerebbe affatto, io detesto i ragazzi, dichiarò la bambina furibonda perché la mano le faceva ancora male e inoltre cominciava a capire che avrebbe potuto dimostrare il suo coraggio in modo più intelligente. Mi rincresce che tu detesti i miei ragazzi, perché quando vogliono sanno essere ben educati e simpatici. La bontà dello sguardo, delle parole e dei modi è la vera cortesia e tutti possono acquistarla solo che cerchino di trattare gli altri come desiderano essere trattati essi stessi. Mamma Baer s'era rivolta a Nan, ma i ragazzi si davano di gomito e pare che capissero l'allusione, almeno per quella volta, perché fecero circolare il piatto del burro con molti per favore, grazie, sì signora e no signora, con un'eleganza e un riguardo insoliti. Nan non disse nulla, ma stette tranquilla, senza stuzzicare Demi, sebbene ne avesse una gran voglia per le arie dignitose che si dava. Parve anche aver dimenticata la sua avversione per i ragazzi, perché giocò con loro a rimpiattino fino a buio. E durante il gioco si poté vedere più di una volta Staffy che le lasciava succhiare il suo pezzetto di zucchero candito, il che evidentemente addolcì il suo umore, perché l'ultima cosa che disse andando a letto fu: Quando arriveranno la mia racchetta e il mio volano, vi lascerò giocare. La mattina, appena sveglia, chiese: È arrivata la mia roba? E quando seppe che sarebbe giunta in giornata, montò su tutte le furie e frustò la sua bambola, tanto da disgustare Daisy. Tuttavia, resistette fino alle 5, ora in cui scomparve senza che nessuno se ne accorgesse prima di cena, perché in casa credevano che fosse andata sulla collina insieme con Tommy ed Amy. Io l'ho vista che correva a precipizio giù per il viale, disse Mary Ann entrando con la torta di meliga, mentre tutti si chiedevano dove Nan. È scappata a casa quella piccola zingara, esclamò la signora Baer preoccupata. Forse è andata alla stazione a cercare il suo bagaglio, suggerì Franz. È impossibile, non sa la strada. E se anche l'avesse trovata, non potrebbe trasportare la valigia per un miglio, disse mamma Baer, cominciando a pensare che l'attuazione della sua nuova idea non si presentava facile. Ah, sarebbe una delle sue, disse il signor Baer, e già prendeva il cappello per andare in cerca della bambina, quando un grido di Jack, che stava alla finestra, li fece accorrere tutti. Era proprio Madamigella Nan, che si tirava dietro un grande scatolone legato dentro un sacco. Accaldata, impolverata e stanca, avanzava però fieramente finché, giunta ansante ai gradini, vi lasciò cadere il suo carico, con un sospiro di sollievo. e vi sedete sopra incrociando le braccia stanche e dicendo: non potevo aspettare di più, e allora me lo sono andato a prendere. Ma non sapevi la strada, disse Tommy, mentre gli altri la circondavano godendosela un mondo. Oh, l'ho trovata, io non mi perdo mai. Ma c'è 1,5 km da fare, come hai potuto arrivarci? È un bel po' lontano, ma mi sono riposata un pezzo. E codesta roba non era troppo pesante? È perché è rotonda e non mi riusciva di tenerla bene, ho creduto che mi si spezzassero le braccia. Non capisco come il capostazione te l'abbia consegnata, osservò Tommy. Non gli ho mica detto nulla. Era nella biglietteria, non mi ha vista, io l'ho presa dalla piattaforma. Ah, corri a dirgli come stanno le cose, Franz, se no il buon Dodd crederà che sia stata rubata, disse il signor Byer ridendo con gli altri della calma olimpica di Nan. Ti avevo pur detto che l'avremmo mandata a prendere se non fosse arrivata. Un'altra volta dovrai aspettare, perché se scappi via puoi trovarti nei pasticci. Promettimelo, altrimenti non potrò più perderti di vista un minuto, disse la signora Baer asciugandole il visetto sudato e impolverato. Beh, non lo farò più, ma papà mi dice sempre di non rimandare mai quello che si può fare subito, e allora, ecco, un argomento quasi senza replica. Ma ora mi pare che faresti meglio darle un po' di cena, rimandando a poi una predica a quattro occhi, disse papà Baer che si divertiva troppo per irritarsi dell'impresa di Madamigella Nan. I ragazzi trovarono la cosa amenissima e Nan, per tutto il tempo della cena, li intrattenne raccontando le sue avventure. Un grosso cane le aveva abbaiato contro, un uomo si era messo a ridere vedendola, una donna le aveva dato una piccola ciambella e il suo cappello era caduto nell'acqua quando si era fermata a bere, sfinita dallo sforzo compiuto. Credo che ora avrai il tuo bel da fare, mia cara. Tommy e Nan sono più che sufficienti per una donna sola, disse il signor Byer mezz'ora più tardi. So che ci vorrà molto tempo per domarla, ma è una creaturina così generosa e piena di cuore che le vorrei bene anche se fosse monella il doppio, rispose mamma Jo, indicando l'allegro gruppo in mezzo al quale Nan stava distribuendo i suoi tesori a destra e a sinistra con tale prodigalità da far credere che lo scatolone fosse inesauribile. Furono questi lati del suo carattere che fecero subito della piccola sventatella, come la chiamavano, la prediletta di tutti. Daisy non diceva più di annoiarsi, dato che Nan inventava i giochi più divertenti, e le sue trovate rivaleggiavano con quelle di Tommy, con gran divertimento di tutti i ragazzi. Basti dire che seppellì la sua grande bambola e se la scordò per una settimana, trovandola poi tutta ammuffita quando la tirò fuori. Daisy era disperata, ma Nan la portò al decoratore che stava lavorando in casa e la fece ridipingere di un bel rosso mattone, con gli occhi neri sbarrati, e poi la acconciò con delle penne. La vestì di flanella rossa, le fece brandire una delle scure di piombo di Ned, trasformandola così in un capo indiano. E quella che era stata Poppidilla tagliava ora con la sua scure la testa a tutte le altre bambole, facendo scorrere immaginari fiumi di sangue nella stanza da gioco. Un'altra volta regalò le sue scarpe nuove a una piccola mendicante, sperando che così la lascerebbero andare scalza. Ma trovò impossibile conciliare la carità coi propri comodi e le fu ordinato di chiedere il permesso prima di disporre dei suoi capi di vestiario. Poi divertì i ragazzi trasformando in un brullotto un'assicella con due grandi vele bagnate di trementina, cui dette fuoco, lasciando poi scendere a buio il piccolo vascello lungo il filo dell'acqua. Attaccò il vecchio tacchino a un carretto di paglia, costringendolo a trottare attorno alla casa a gran velocità. Diede il suo vezzo di coralli in cambio di quattro poveri gattini che erano stati tormentati da alcuni ragazzacci senza cuore e li curò per qualche giorno come una mamma, medicando le loro ferite con fior di latte, imboccandoli col cucchiaio della bambola e addolorandosi tanto della loro morte che Demi, per consolarla, le dette una delle sue più belle tartarughe. Poi volle che Silas le tatuasse sul braccio un'ancora come la sua, insistendo anche per avere una stella azzurra su ogni guancia, cosa che il buon uomo non osò fare, nonostante tutte le sue moine e le sue furie che per poco non lo fecero cedere. Cavalcò tutte le bestie, dal grande cavallo Andy al rabbioso maiale, al quale fu a stento sottratta. Qualunque cosa i ragazzi la sfidassero a fare, ella subito la tentava, per quanto pericolosa fosse, e quelli non si stancavano mai di mettere alla prova il suo coraggio. Il signor Byer suggerì allora di vedere chi sarebbe riuscito meglio nello studio. E Nan trovò non meno piacere nel servirsi della sua pronta intelligenza e della sua buona memoria che dei suoi svelti piedini e della sua lingua sciolta, mentre i ragazzi dovettero fare molti sforzi per non perdere le loro posizioni, perché Nan dimostrava chiaramente che le ragazze potevano fare molte cose bene come i maschi e alcune, anzi, meglio. Non usavano premi nella scuola, ma il bene del signor Baer e una buona nota della signora sul libro della coscienza insegnavano ad amare il dovere per se stesso e a cercare di compierlo scrupolosamente, certi che la ricompensa, prima o poi, non sarebbe mancata. La piccola Nan avvertì subito la nuova atmosfera, godendone e dimostrando che era quanto le occorreva, perché quel piccolo giardino era pieno di bei fiori seminascosti fra le erbacce. E quando delle mani gentili cominciarono a coltivarlo, spuntarono verdi germogli di ogni specie, promettendo una meravigliosa fioritura, sotto il calore dell'affetto e delle cure premurose, il miglior clima che esista per i giovani cuori e le giovani anime.